Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia, grazie alla partecipazione musicale in diretta alla tromba Raffaele Köhler e al trombone Luciano Macchia. Un'informazione concernente la replica di questa puntata che verrà trasmessa domani notte alle ore 1. Buona giornata a tutti.